sai che non ero io. Nessuno aveva ragione. La vita che volevi è chiara a tutti e due. È da un po' che mi domando se ci sarà un'altra che non si addormenta senza me. E penso che è da un po' che non spacco tutto, che non mi perdono, che non mi innamoro. Non ci saremo mai dimenticati, ma ce lo siamo detto da ubriachi. Tu forse l'hai scordato già, era oggi un anno fa. E mentre torno verso casa mia, vedo le luci della polizia. Ah, se venissero per me, mi racconterei solo di te. Segreto. Sai cosa penso io? Che in fondo sia normale anche lasciarsi andare, ma che spreco micidiale. E tra un po' penso che farò quel viaggio che volevo. Non ci saremo mai dimenticati, ma ce lo siamo detto da ubriachi. Tu forse l'hai scordato. Era oggi un anno fa. E mentre torno verso casa mia, vedo le luci della polizia. Ah, se venissero per me, gli racconterei solo di te. Di una strada che è dimessa tu e che mi ha rubato ogni segreto. L'ultima volta in cui ci siamo visti, di certo non lo scordo più. E so che a volte ci pensi anche tu. Mentre tornavo verso casa mia, un pensiero mi ha portato via. Chissà com'è la vita che volevi, e stai trovando quello che cercavi. Tu forse l'hai scordato già, ma era oggi, un anno fa. Oggi, un anno fa.